20 chilometri al giorno, 10 all'andata, 10 al ritorno, 20 chilometri al giorno, sentirmi dire che non avrei desiderio. Sole, data ritorno, 20 chilometri al giorno, per tornare a casa e dove sarà che te. La gente da noi, ma quella...